9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Allora, prima pillola, va bene Oscar Giannetto, però adesso c'è un birbantello che da qualche giorno si finge Oscar Giannino col K su Twitter, la malattia dei miei colleghi giornalisti, e che twittano immediatamente, passano la giornata a twittare, e ti ripicche cinguettino, cinguettino. Allora, questo qua che dice di essere Oscar Giannino dice che è l'ultima volta che io sono in radio. O è una maniera delicata per cacciarmi dalla radio, ma non credo. E ieri migliaia di persone a mandarmi messaggi mentre in giro per Alessandria, ma è vero che te ne vai, ma l'hai appena annunciato su Twitter. Ragazzi, datemi una regolata. E è finto anche quello, come Giannetto qui nella realtà. Io sono al di sotto di tutte queste finte identità di chi si diverte col mio nome. Auguri a tutti, per il momento sono ancora qua e vedremo. Quindi quel Twitter lì e i 3000 che lo seguono e i colleghi giornalisti che lo seguono non rendendosi conto che non sono io. Ma dove vogliamo arrivare, ragazzi? Dove vogliamo arrivare? Vengo anch'io, no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo solto l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Allora, a proposito del vengo anch'io, no tu no, oggi la voglio fare un po' più breve perché parte con un mal di testa incredibile. Ma detto tutto questo, guarda, basta che vi leggiate sul Fatto Quotidiano le prime due pagine sulle spese della Camera dei Deputati, così vi passa la voglia veramente di ridere e sorridere. Più di 1 milione per i corsi di inglese, 8,5 milioni per i rimborsi viaggio, 5,7 milioni per i pranzi. Dopodiché, se non volete farvi mancare un'altra goccia di bile, salvo il vitalizio regionale, una riga aggiunta al decreto e il taglio non c'è più, o meglio solo dalla prossima legislatura. Siamo le solite, Calimero, cioè è inutile che ci giriamo intorno. Non lo capiscono, litigano per l'election day col PDL che dice che manda a casa il governo Monti. È una roba inguardabile. Dopodiché vi diranno che avete sbagliato voi, che non siete andati a votare o che invece avete scelto Grillo, ma è una roba inguardabile. Comunque, oggi è Santa Margherita di Scozia e qualcuno forse può immaginare che questo nome Margherita è per me fondamentale nella mia vita e mia moglie. Quindi auguri innanzitutto a lei e auguri a tutte le Margherite. Non stavo dicendo i margheritini, no, quelli non ci sono più, sono spariti anche loro. Si sono fottuti un po' di soldi pure loro con la loro tesoriere. Detto tutto questo, andiamo al tema del giorno. Il tema del giorno è un tema dedicato integralmente a una componente fondamentale della piccola impresa italiana, agli artigiani. E perché è dedicato a loro? Perché ieri c'è stato un'assemblea nazionale, l'assemblea nazionale della CNA, con l'intervento del presidente Ivan Malavasi, e con me in questa trasmissione noi decidiamo da sempre di dedicare attenzione a tutte le componenti delle imprese italiane. Questa certo è la radio di Confindustria, è una linea editoriale, ma io ho sempre ritenuto essenziale dedicare uguale attenzione a tutte le componenti dell'impresa. E in questa crisi, in questi ultimi 3 anni, una crisi che si addensa su i tre quarti del PIL che sono il mercato domestico, che aggredisce le continuità della piccola impresa sul mercato domestico, che incattivisce sul suo reddito, sulla sua capacità di avere patrimonio bastevole, che attenta alla sua vita con le pretese enormemente accresciute del fisco, con il credit crunch e i rientri imposti dalle banche, che ne mette in difficoltà l'esistenza per i cattivi pagatori. Mi sembra giusto oggi dedicare attenzione soprattutto a questa grande storia di talento, questo enorme patrimonio del saper fare, del voler fare, che è la componente degli artigiani. Ieri il presidente Ivan Malavasi ha svolto una relazione che non si è sottratto al dovere di indicare alle classi dirigenti del paese anche delle scelte politiche, per così dire. E non si è sottratto quindi all'idea di costruire classe dirigente, non solo di occuparsi di denunciare tutto quello che non funziona e tutto quello che in questi anni ha peggiorato la condizione delle piccole imprese italiane. Ha enunciato un bel po' di ideone, un po' amabilmente sfottendo il ministro Passera, che aveva detto mica si può risolvere la situazione italiana con le ideone, e lui gliene ha date un pochino, per così dire. Però nel ringraziarlo di essere qui con noi stamane, volevo che iniziasse semplicemente con qualche numero, perché effettivamente il numero delle imprese di artigiane che sono scomparse in questi 4 anni è spaventevole. Cioè, negli ultimi 4 anni, ha detto ieri Malavasi, abbiamo perso quasi 90.000 imprese artigiane di produzione, che significa oltre il 20%, cioè 250.000 posti di lavoro in meno, il bilancio di una guerra perduta più o meno. Buongiorno presidente Malavasi. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. No, si figuri, volevo appunto chiederle di cominciare con di qualche commento su questo numero, che effettivamente è un numero spaventevole. Come sì, un numero spaventevole, è un numero tra l'altro che fa i conti, non è purtroppo reale rispetto alle dimensioni del 1.500.000 di imprese. Perché noi abbiamo preso il conteggio solo di quelle manifatturiere, perché il periodo in cui è stato inserito, io parlavo della manifattura come uno degli elementi su cui il paese non può dimenticarsi, che rimane il secondo paese europeo per la manifattura, quindi va bene tutto, aumentiamo i servizi, aumentiamo le prestazioni, il turismo, l'ospitalità, la cultura, vanno tutte bene, ma non dimentichiamoci che l'essenza di questo paese parte da lì. E in questo ragionamento noi abbiamo rilevato statisticamente, quindi un dato controllabile da chiunque, che in 4 anni sono perse 90.000 imprese per un totale di 250.000 posti di lavoro, e dietro questa affermazione ci stava un allarme drammatico. 250.000 posti sono 5 volte i lavoratori dell'Ilva, e sono scomparsi nell'assoluta indifferenza della politica e delle istituzioni. Quindi ci sono imprese e lavoratori sotto i riflettori della comunicazione e della politica, che giustamente richiamano l'attenzione al dramma delle famiglie che ci sta dietro, all'occupazione, e ci sono invece le migliaia, migliaia e migliaia di imprese fatte di 2 o di 3 che scompaiono come se niente fosse, nessuno se ne occupa, ma avendo lo stesso tipo di dramma della famiglia, dell'imprenditore, del dipendente. E quindi pensavamo ieri di offrire una riflessione che per la verità hanno colto ha colto in modo particolare il ministro Passera nella sua controdeduzione, se così possiamo definire. Però noi davvero ieri abbiamo tentato di non lanciare solo degli allarmi, ma di mettere i piedi nel dramma del paese, che è un dramma di credibilità, di fiducia, di riassetto istituzionale, perché la politica, l'economia, insomma, perdere un'impresa è un dramma, perdere l'orizzonte è davvero uno psicodramma. E quindi noi ieri abbiamo cercato di cambiare anche il tipo di confronto, anche perché avevamo scelto, e credo che abbiamo fatto bene, abbiamo scelto il confronto con i partiti che sostengono il governo Monti, che vi ringrazio per aver partecipato al massimo livello con i loro 3 segretari, in quell'occasione, insomma, devo dire, ne ho parlato un po' troppo politichese, io sono severo anche se sono degli amici, ma insomma sono severo perché le imprese hanno bisogno di risposte più precise, il linguaggio deve diventare comprensibile, né troppo politichese né troppo, come dire, twittese, come quello che ricordava lei in apertura, dove si nascondono le bugie con falsi nomi di qualunque genere. Ma noi lì ci abbiamo messo la faccia, ce l'abbiamo messa volentieri, e puntando quindi a dire cosa serve il paese in termini di classe dirigente e mettendo in discussione loro, ma mettendoci in discussione anche noi. Poi abbiamo segnalato non tutti i drammi, ma 5, 6, per la verità 7 secondo me erano i punti, dove diciamo su queste cose bisogna farlo subito, altrimenti avremo un'altra moria tremenda di imprese. Ci aiuta a ripercorrerli un po' brevemente questi 7 allarmi? Sì, no, lo faccio volentieri, perché uno è il credito, e dentro il credito ci sono varie sfaccettature, quindi non solo un problema di nuovo ruolo delle banche, ma un allarme perché per sostenere le imprese stiamo rischiando di perdere l'unico strumento che l'ha sostenuto, che si chiamano i confidi, che sono in grandissima difficoltà economica e di patrimonializzazione. E quindi chiediamo che attraverso il fondo di garanzia si costituisca o ci si aiuti a ricostruire patrimoni adeguati per non perdere un ruolo, e che l'accesso al fondo di garanzia sia semplificato, soprattutto perché oggi al nostro mondo è difficilissimo raggiungerlo. Allora, le leggi in questo paese non si possono fare, e poi dopo avere canali preferenziali o per burocrazia o anche per astuzie legislative, dove alcune tipologie di impresa hanno un accesso facilitato ed altre diventa un percorso ad ostacoli. E quindi il tema è credito con strumenti dell'artigianato, ma per la verità non parlo per gli altri, ma insomma questo strumento vale per il commercio, vale anche per l'industria, è stato uno strumento straordinario, oggi rischiano di chiudere, sono davvero in una situazione drammatica, e questo grido d'allarme è documentato dal 7% in meno di risorse che le banche hanno messo a disposizione nell'ultimo anno. Una domanda su tre, non dico che riceve una risposta negativa, non viene nemmeno risposto, quindi la situazione è di un allarme drammatico, e chiediamo allo Stato di mettere in condizioni di aiutare gli strumenti mutualistici che le organizzazioni in 50 anni, 60 anni di storia hanno creato per le loro imprese. Questo è il primo vero problema. Un tema di quale ci si riempie la bocca, e che è anche vero, che ha sostenuto quel po' di ripresa dove c'è stata in alcuni settori, c'è stata nelle imprese che riescono ad esportare, il 28,8% di quelle imprese l'hanno realizzato le imprese artigiane, le piccolissime imprese. Noi pensiamo che sia un mondo da favorire non solo con le missioni commerciali che vanno fatte, non solo con gli incontri, la bilaterale, tutte cose da fare, ma c'è un tema che riguarda chi riesce ad agganciare i mercati internazionali, o chi dentro i mercati internazionali aumenta, raddoppia, triplica i volumi di esportazioni. Io credo che quelli dobbiamo inventarci uno strumento nuovo, noi lo chiamiamo credito d'imposta, per premiare questo sforzo straordinario che avrà una grande ricaduta, che ha una grande ricaduta sull'economia reale del paese, sulla struttura delle imprese, sulle risorse che vengono messe poi a disposizione del nostro paese. Chiediamo di superare la barzelletta dei rifiuti, di questo benedetto Sistri, che è un tormentone che da 6 anni continuiamo a pagarlo e arrivare da rinvio a rinvio perché non è applicabile. L'abbiamo dimostrato non solo noi, in alcune giornate, in una giornata unica abbiamo fatto una prova assieme a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e abbiamo visto che dopo 10 minuti il sistema era imballato, non funzionava, è costosissimo e comunque non funziona. Il tema dei rifiuti è un tema legato molto alla legalità e alla trasparenza, è un tema legato all'ambiente e ci interessa molto, noi non ci sottraiamo, però bisogna selezionare chi deve farlo, dare legalità con strumenti semplici ed efficaci, e lì abbiamo anche fatto le proposte al Ministro che se vorrà le prenderà ne farà l'uso che sia. Però certamente non possiamo più fare solo rinvii, ma davvero dobbiamo mettere fine a questo balletto dove noi continuiamo a pagare, non moltissimo, ma paghiamo, uno strumento che non funziona. E devo dire che qua è indecoroso che lo Stato faccia un accordo con una ditta che gli dà uno strumento informatico che non funziona e continua a pagarlo. Chiuso la polemica, intervento nel settore energetico, che ci pare uno segmenti dove si può puntare per ridare davvero di nuovo lavoro, nuova linfa a questo paese, anche internamente, anche in modo autoctono, dove rilanciare qualche consumo non farebbe male. Tutto il mondo che riguarda l'energia, c'è il problema della generazione, ma c'è il problema del risparmio energetico, c'è il problema della concorrenza sui mercati energetici. Lì riprendiamo alcune proposte che sono in campo, che ha fatto anche questo governo e del quale ne siamo, come dire, grati, di avere alzato le percentuali di deduzioni, di averle allungate nei tempi e quindi renderli secondo noi più appetibili. Chiediamo che diventino strutturali e che ci sia più chiarezza, soprattutto nell'aprire, più coraggio nell'aprire la concorrenza sui mercati energetici. Un tema che rimane lì, che abbiamo accolto con grande favore, era la cosiddetta agenzia delle imprese, che è ancora al palo. L'agenzia delle imprese può essere uno strumento di grande integrazione tra Stato e privato associativo che sia. Noi per nostra parte abbiamo detto cosa abbiamo in termini infrastrutturali, informatici, da mettere a disposizione, da interfacciare con lo Stato, per togliere davvero, non a parole ma a fatti, togliere burocrazia alle imprese, peso, carico e tempo. Questi sono i nodi che potremmo fare subito. Poi naturalmente ci sono quelli di natura di scelta strategica che sono un po' più complessi, ma che abbiamo chiesto di affrontarlo. Ma c'è una scelta che noi chiediamo: questo Paese apra gli occhi una volta per tanto, analizzi davvero come è fatto questo Paese. Il 98% sono imprese che stanno sotto i 50 dipendenti e io credo che le azioni politiche vadano messo al centro, o azioni di politica industriale, come si diceva una volta, si può dire così anche oggi, al centro vadano messe le piccole, piccolissime imprese, perché il Paese è quello lì. Se finché abbiamo la politica che sogna un Paese che non è così, ma che è fatto di grandi imprese, che purtroppo non ci sono e spesso sono assistite, poco funzionanti, non tutte per fortuna, ma spesso purtroppo è anche così, insomma è una scelta di campo che questo Paese deve fare. E quindi quando fa una cosa, dicevo un ex nostro consiglio dei ministri, fatto bene per le imprese, per le piccole imprese, fatto bene per il Paese, riprendere uno slogan di questo genere, non in modo strumentale ma una scelta di campo vero, crediamo che sia davvero il primo passo per mettere in fila le questioni o l'ideona, come abbiamo un po', come dire, in modo scherzato ieri con il Ministro, quindi mettere in fila non un'ideona in sé che comprende tutte, ma tante idee, passo per passo, che stanno dentro un'idea di sviluppo del Paese che pensi non solo al domani, che pure il dramma l'abbiamo, del nostro bilancio pubblico, ma cominciamo a pensare fra 10 anni ai nostri figli, che cavolo gli facciamo fare. Senta Presidente, un'ultima domanda, ma quanto ai temi politici, perché lei ha avuto un tono ieri, l'ha ripetuto anche qui, insomma, di, come devo dire, sostegno all'ipotesi che attualmente governa, ma insomma, parla anche al futuro questa cosa di Monti. La domanda che le faccio è: ma la crisi così profonda e la mancanza di risposte, io vedo una continuità invece purtroppo tra la politica di Tremonti e quella di Monti, la vedo nella stretta fiscale, la vedo nell'incapacità di saper mettere in piedi un'amministrazione tributaria che distingue tra gli evasori incalliti da perseguire quelli che invece sono senza soldi per pagare e che invece induciamo a chiudere, lo vedo nell'eccesso di tasse rispetto ai tagli di spese, lo vedo nell'incapacità di scegliere interventi fiscali sapendoli computare sugli effetti che hanno l'economia reale. Noi abbiamo alzato tutte le tasse possibili, lo Stato prende per sé spietatamente tutto quello che vuole, questo è quello che vedo io, e non ho visto differenza tra Tremonti e Monti. Monti dà grande credibilità internazionale, ma su questo no. Allora le chiedo, ma non è che per caso in tutti questi anni la politica ci ha fatto capire che d'accordo alla responsabilità nel dare una mano, nel non scassare ulteriormente a chi si impegna per dare una mano, una credibilità al governo del paese, però la gravità dell'ondata che arriva, Presidente Malavasi, con questi milioni di italiani che dicono che non ci si riconoscono più in questo modo di fare, che tipo di domanda pone a chi come lei guida un'associazione colpita dalla crisi così duramente? Bisogna assicurare una leva dal basso alla politica, anche fregandosene poi di chi dice ma che fate, vi mettete a fare impropriamente selezioni di politici in erba, oppure bisogna stare 3 passi indietro, rispettare la politica, fare proposte, essere costruttivi, ma per così dire tenersi distaccati. La politica è la politica, io ho fatto associazione di imprese, è un altro mestiere, un'altra cosa. Nei momenti di urgenza non bisogna avere anche un po', non dico il coraggio, ma la responsabilità di dire avete fallito e noi ci facciamo avanti, lei che pensa? Allora, tre blocchi contiene secondo me la sua domanda. Uno è la continuità e devo dire che purtroppo condivido buona parte della sua analisi. Continuità nella sostanza e negli strumenti, perché la continuità è stato il rigore, rigore, rigore, questa volta forse il rigore è un po' più vero, ma è rigore. L'equità è stata, insomma, non perfettamente in equilibrio, lo sviluppo ce lo siamo dimenticati. E devo dire che questa brevissima, tre denominazioni, hanno tanto a che fare con quanto c'era prima. Certo è cambiata la credibilità e credo questo sia il pezzo che va dato di merito al governo Monti, aver rimesso il paese perlomeno alla, non più alla berlina delle battutacce, ma un paese che cerca una strada seria che non rifiuta i sacrifici. Le politiche che sono state messe in campo, non c'è dubbio che le prime sono state di forte recessione, e ciò che abbiamo contestato anche ieri al governo Monti è che anche la legge di stabilità contiene troppi elementi recessivi e ancora una volta ci si dimentica dello sviluppo. E noi pensiamo che invece alcuni buoni risultati sulla lotta all'evasione, in termini di maggiori entrate che sono, insomma, bisognerebbe darli immediatamente nel o cuneo fiscale o dove vogliono, purché rimettino soldi in tasca alla gente per poter rilanciare o comunque fermare il crollo dei consumi interni. Quindi c'è molta continuità da quello, cioè, quindi molta anche assonanza, però insomma noi pensiamo che questo sia forse purtroppo un passo obbligatorio, e non è che adesso siamo fuori dai guai, forse abbiamo l'acqua sotto un millimetro delle labbra che ci consente di respirare forse un po' più di prima, quindi non ce lo dimentichiamo, non chiediamo di aprire i cordoni comunque sia, chiediamo però che il rigore faccia i conti anche con la sopravvivenza delle imprese, dei cittadini, delle famiglie, del paese. La politica. Noi ieri alla politica siamo stati molto severi, balletti non ne vogliamo più, tra l'altro con varie interviste ho sollecitato quello che lei dice, noi non crediamo che ci sia un'alternativa alla politica, crediamo che invece a questo tipo di questo tipo di politica, che è diventata autoreferenziale, di gestione del potere, che poco ha a che fare con l'equilibrio e la stima dei cittadini, con tutte le fatti che noi conosciamo, da quelli regionali a quelli statali, a quelli ai contributi ai partiti che sono quadruplicati in 4 anni, tutte queste robe qua, i doppi, i tripli stipendi, si taglia sempre dagli altri ma loro mai, insomma, noi, faccio un'affermazione nella relazione che voglio renderla ancora più esplicita, i cittadini e gli imprenditori si riprendino in mano gli strumenti della democrazia, questa è un'affermazione che facciamo pubblicamente, che facciamo nella politica, che non sostengono ad autocandidature di nessun genere, semplicemente diciamo non è che possiamo solo dire che è colpa loro, vogliamo partecipare e questi partiti o cambiano o cambiamo le persone o inventiamoci altre robe. La politica è lo strumento della democrazia, la sospensione della democrazia come è avvenuto in questo anno non ci piace come scelta di sviluppo del paese, era indispensabile. È bene che si sia fatta, ma si ritorni davvero a una politica partecipata dove l'etica, l'equilibrio, la competenza diventi una selezione attenta delle classi dirigenti. Queste sono secondo me le cose che, come dire, maggiormente abbiamo sottolineato. L'ultima cosa, se ho capito bene, è insomma ritorniamo a mettere al centro il cittadino, cioè i bisogni veri, altrimenti noi andiamo avanti a volte prendendoci con qualche provvedimento, a volte prendendoci un po' di meno, ma senza avere una bussola vera di orientamento. Questo paese deve continuare, deve riprendere, non come perché l'abbiamo smesso da troppi anni, deve riprendere un'idea di sviluppo che sia coerente. Certo, non una gabbia dal quale non uscirne più, perché il mondo cambia, ma proprio perché vogliamo essere flessibili, vogliamo anche guardare avanti, vogliamo avere un'idea su cui sviluppare gli assi portanti del paese facendo una scelta che è legata a come siamo e non come vorremmo. Allora, grazie al presidente di CNA Ivan Malavasi. 9:37, 34 secondi, diffidate dalle imitazioni, non c'è alcuno Oscar Giannino su Twitter, io non sono malato di cinguetti, sono uno di quei giornalisti che tenta ancora di approfondire i fatti e che non crede di misurare quanto è intelligente da quante decine di migliaia di follower ha su Twitter, come fanno molti miei autorevoli colleghi, nei confronti dei quali non voglio polemizzare, ma vedo che mi dicono, anzi, che passano le giornate a fare centinaia di tweet, non riesco a capire, io ho già così poco tempo per leggere e approfondire, come si faccia se devi sempre dare conferme a chi ti segue di quanto sei bello a farti seguire. Io sono molto critico verso questo narcisismo devastante che c'è nei giornalisti. Molti accusano me di essere narcisista. Io non credo di essere narcisista, mi vesto un po' strano, però non credo di dover imporre idee mie a nessuno e non credo di che si misurino coi tweet. Ci sono altri criteri, poi può essere che sbaglio, il tweet è una cosa fondamentale come tutti gli altri social network, però credo che ci sia un eccesso, cioè vedere la mezza parola mentre sei in televisione, i colleghi subito che mentre stanno a pronunciarla la stanno rilanciando per vedere chi altri, a me sembrano un po' deviazioni. Comunque quello è un falso, Giannino, magari è più intelligente e originale, scegliete al paragone. Oggi stiamo parlando di artigiani, una questione seria. Abbiamo sentito Eva Malavasi, presidente della CNA, e sentiamo chi tra voi ha chiamato per dirci e testimoniarci come se la passa, come la pensa. Se bastano queste parole di responsabilità come quelle che ha pronunciato Malavasi, io, lo sapete, sono per toni più secchi. Io penso che alla politica vada riservato qualche calcio più duro. Capisco che chi fa mestiere di rappresentanza, associazionismo d'impresa debba avere toni istituzionali. Però io penso purtroppo che bisogna essere più secchi. Sentiamo Pietro Andrea che ci chiama dalla provincia di Pesaro Urbino. Prego Pietro Andrea. Buongiorno Oscar, innanzitutto grazie, mi sento onorato, se ancora la parola onore ha un valore, di parlare con lei, è anche un po' emozionato. Dunque, io mi chiamo Pietro Andrea, ho 38 anni e sono un artigiano coramaio. Sono una partita IVA individuale e ho una bottega dove lavoro a mano senza utilizzare macchinari e consumare energia elettrica. Io ho scelto di... Da quanti anni, se posso chiedere? Io allora mi sono laureato a 22 anni e dopo la mia laurea sul valore della vita nella società moderna, una tesi sul capitale di Marx, ho scelto di essere artigiano, non di fare, di esserlo proprio per scelta politica. E praticamente dalla fine degli anni 90 in poi, quindi parliamo di 16 anni di bottega, sto chiamando adesso proprio dalla mia bottega, è iniziato un cammino verso il baratro. Il baratro, perché oggi mi ritrovo, pur rappresentando quella che gli italiani chiamano eccellenza, mi ritrovo in una situazione disperata, tra fatica a recuperare i crediti, sia dalle aziende che dal pubblico, fatica a pagare, a rientrare con le banche, a rientrare con Equitalia. Attualmente ho un mutuo solido per pagare le tasse, non per acquisto di altro, per pagare le tasse. Tasse che è giusto che vengano pagate, però tutte in proporzione. Certo. Lei consideri, io ad esempio faccio calzature su misura, le faccio a mano e ne riesco a produrre un massimo di 150 all'anno. Non sono un calzaturificio, sono una vera e propria bottega come certo. Era nel Rinascimento, sono con una pressione fiscale arrivata al 67-68% e non so più come fare. Il problema non è tanto la questione economica, ormai non c'ho più nulla, tutto quello che potevo mangiare per mantenere la bottega l'ho mangiato. Ci sono stati periodi che facevo pure 4-5 lavori contemporaneamente, sempre in regola, anche la notte per mantenere la bottega. Il problema è il futuro, avere progettualità. È finita, non c'è più nulla. Chi ha potere politico ha regalato il lavoro e i lavoratori alla mafia, alla camorra e all'andrangheta. Pietro Andrea, ti devo interrompere perché non ho voluto proprio che si avesse neanche una pausa. La tua testimonianza, che secondo me era straordinaria, anche per l'approccio che hai descritto, dalla tesi che hai dato a come dai l'anima in questo mestiere di artigiano, che poi, ripeto, per molti è esattamente questo, è una scelta di vita, non è solo una collocazione al proprio tempo, al proprio lavoro. Io penso che la politica sia lontana anni luce dal capire che cosa vuol dire tenere aperta una bottega. Quindi penso che poi quando passa dice: ah, datemi l'ideona, sì, una battuta, ma non si campa di battute quando la gente si deve aprire i mutui per pagare le tasse, capite? Perché lo stato depredatore è diventato un lupo famelico e dei lupi bisogna guardarsi. Con le buone parole, come diceva Francesco, ma talvolta anche con le brutte, però. Ecco, questa è un po' la mia idea, purtroppo. Dario, dalla provincia di Monza e Brianza. Prego, Dario. Buongiorno, sor Giannino. Senta, il caso ha voluto che mi telefonassero proprio mentre ero davanti al parcheggio dell'Agenzia delle Entrate di Monza. Niente, la mia storia è semplice. Faccio il mio lavoro, faccio impianti elettrici e quadristica, formazione industriale da quasi 30 anni. Nell'arco di questi 30 anni ho subito qualcosa come 14 fallimenti da parte dei miei clienti. Però c'ho qualcosa come 4 miliardi delle vecchie lire. Ho una famiglia, due figli, una moglie. Nonostante tutto, tutte le volte che mi succedeva qualcosa ripartivo di nuovo. Qualche mese andava bene, dopodiché purtroppo io i miei lavori erano lavori abbastanza impegnativi per quanto riguarda gli importi, di conseguenza erano tutte fatturazioni abbastanza elevate. Avevo 6 dipendenti, vabbè, comunque ci ho rimesso una decina d'anni fa, mi scusi ma sono un po' emozionato. Prego, prego. Ci ho già rimesso una volta l'abitazione di mio padre e il capannone che avevo realizzato, e 3 anni fa per l'ennesima volta sono rimasto vittima di un fallimento molto grosso, quasi 800.000 euro. Un lavoro fatto a Malpensa. Il Tribunale di Milano mi ha inserito come privilegiato con un credito di 600.000 euro. Però purtroppo, vabbè, ho continuato ancora cercando di fare, di dare tutto me stesso, come del resto da 30 anni a sta parte. 3 mesi fa Equitalia mi ha pignorato i conti correnti. Mio Dio. Non è finita. La scorsa settimana una banca milanese mi ha chiesto il rientro immediato per 100.000 euro. Io vivo in questo momento grazie ai soldi dei miei figli che, vabbè, lavoravano con me, visto come purtroppo è andata la situazione, si sono risvoltati le maniche e hanno trovato altri lavori. A 61 anni non so più cosa fare. Ho pensato più di una volta. No, non dirlo neanche, dai, per favore. Dario, anche nel tuo caso, io penso che non ci si debba sentire in difetto se la voce si spezza e si incrina, perché sono vite intere che purtroppo, di fronte al fatto che il cliente non paga, uno poi a quel punto con l'aziendina piccolina è ovviamente esposto al fatto di essere coinvolto in fallimenti, procedere concorsuali diventa una botta clamorosa. Naturalmente Equitalia se ne fotte di queste cose qua, perché ci aggiunge del suo. Non ti sentire in difetto se la voce si incrina, è il minimo che possa capitare di fronte a chi testimonia con il proprio lavoro una vita intera di dedizione. Io non trovo che sia giusto che lo Stato non sia capace di distinguere, anzi mi irrita a un punto tale che mi provoca volontà di fare un po' di giustizia, come bisogna dire, legalitaria. State attenti, io sono a volte sui toni esasperato, ma il mio sono i toni esasperati di chi chiama un'azione civile, una leva civile. Noi non possiamo restare rassegnati di fronte a tutto questo, semplicemente poi che i presidenti, come nel caso di Malavasi, fanno le loro assemblee, giustamente tentano di fare mediazioni istituzionali. Dal basso ogni tanto bisognerebbe che tutte queste sofferenze di vite spezzate, di lavoro, di dedizione, di onestà trovassero forme espressive. almeno in parte proporzionata alla spietata, predatoria, miserabile conduzione che lo Stato riserva a noi tutti in queste cose. Ma this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. Allora, this is the end, my only friends. Non è la fine della trasmissione, nel senso del ciclo di trasmissione, è solo la fine della trasmissione di oggi. Quindi ancora alcuni che hanno mandato, hanno inondato di messaggi Radio 24 dicendo perché l'ho cassato. No, non, oggi non sono finito, finirò un giorno, magari presto, ma oggi no. Andiamo avanti con testimonianze sugli artigiani. Sergio, che ci chiama dalla provincia di Monza, dici Sergio. Sì, io sono un po', come dire, mi sento un po' in imbarazzo vista la storia del mio concittadino che ho chiamato precedentemente. Io mi trovo esattamente in queste situazioni. Io sono un artigiano da 20 anni, opero con discreto successo e mi trovo con questi insoluti passati in giudicato, pignoramenti in mano, eccetera eccetera, di cui io pago le tasse, pago IVA, pago ogni, e non mi rientra nulla. Tra l'altro io, a modo di investimento, non ci ho mai creduto alla pensione da 20 anni a questa parte, e facendo un'attività di ristrutturazioni ho negli anni rilevato dei micro appartamentini a Milano, e mi ritrovo con il fatto che se non li tengo affittati, c'ho un IMU in questo caso allucinante, se li affitto me li occupano e poi per tirarli via devo spendere una pacata di soldi oltre alla ristrutturazione quando vanno via. Io sinceramente ho ricevuto, dopo, non sono italiano, sono argentino, e sono venuto qua 25 anni fa e penso di aver fatto qualcosa. Adesso mi ritrovo con un'offerta di trasferirmi in Svizzera e la sto valutando molto molto molto seriamente. Sergio, secondo me purtroppo devo dirti che fai bene a valutarla molto molto molto seriamente. Sentiamo Giulio da Roma, prego Giulio. Buongiorno, grazie per avermi ospitato, io sono veramente un estimatore di Oscar, che penso sia una punta di diamante nella lotta che stiamo portando avanti in questo paese. Io penso che ci siano i margini per ripartire, ma bisogna, ci vuole il fischio d'inizio in questa partita, dove il centravanti siamo noi artigiani e nessuno ci passa la palla. Facciamo giocare gente che fra 10 anni è morta di vecchiaia e che non capisce niente su quella che è la realtà del tessuto sociale. E senza riforma fiscale, il fischio d'inizio è la riforma fiscale basata sulla verità. Io non posso aprire la mattina a debito. Bravo. E arrivo la sera che non è detto che sto a credito. Senza riforma fiscale non andiamo da nessuna parte. Questa è la realtà. Guarda, sono integralmente d'accordo con te. Se posso esprimere una critica alle associazioni di settore, è l'eccesso di, come devo dire, responsabilità con cui parlano su questo. Bisognerebbe attaccare durissimamente, con la stessa spietatezza con cui ci prendono le cose, i signori dello Stato, metterli all'angolo, dire che si devono vergognare per il loro sistema fiscale. Vergognare, capite? Si devono vergognare perché impongono alla gente di chiudere, di distruggere il lavoro, di spezzare vita. Uno Stato che fa così, che semina e radica la disperazione, è uno Stato che ha perso il diritto di rappresentare un punto di riferimento. Ecco, ogni tanto bisogna saper cambiare tono quando si parla dello Stato e del fisco. Questo secondo me dovrebbero fare le associazioni, improvvisamente impaurirli con il tono, poi tornare pacatamente a parlare di argomenti della rappresentanza. Walter da Trieste, prego Walter. Buongiorno dottor Giannino, innanzitutto grazie per avermi contattato e per avermi fatto partecipare. Allora, sarò brevissimo. Dunque, io è il 2006 che subisco, dal 2006 fino ad arrivare all'anno scorso, al 2011, che subisco vessazioni continue da parte dello Stato, sotto ogni forma. Io avevo un'impresa, 11 dipendenti, fra dipendenti e collaboratori, mi occupavo di Information and Communication Technology. Che cosa è successo? La situazione, dunque, più di 60 raccomandate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, con una ferocia inaudita, hanno fatto di tutto, ho dovuto pagare delle robe incredibili. Walter, ti devo interrompere, non sapevo che questo fosse il tema e purtroppo era quello che avevo toccato prima. Alcuni dicono che poi improvvisamente urlo troppo, sì, urlo proprio per attirare l'attenzione sulla depredazione fiscale. Abbiamo finito anche per oggi, grazie a voi tutti, appuntamento a domani.